mentre l'eco delle critiche altrui amplificava i miei sensi di colpa. E mi persuadeva che non smetterò di fare un errore solo perché non è la prima volta. Io mi chiedevo qual è il significato di una scusa, così l'ho chiesto a Google ingenuamente. Poiché ovviamente la maggior parte dei siti che il motore di ricerca proponeva contenevano solo scuse pronte da inviare per SMS. E ho ripensato che ciò che molti vogliono è essere perdonati senza capirsi, per non sentirsi dei vermi, per paura di essere puniti in risse inferni. Perché quando una ragazza li lascia non sono più abituati a stare da soli, fermi, e non vedono la dignità di accettarlo strippando, arrivando a fingersi servi. Quando le forze riesco a evitare di assegnare le colpe dopo un diverbio, sono certo che gli uomini cercano scorciatoie, come copiare la scusa già pronta su internet, come la maggior parte delle potenzialità di internet, come la mia ricerca di un'interpretazione morale preconfezionata causata da paranoie, come sto pezzo di mia teoria sulle scorciatoie.